19 marzo 399. Sono oltre 4 anni che non prendo più un foglio di papiro per continuare la storia di Ipazia. È stata una decisione saggia, avrei finito per raccontare solo una storia d'amore, la storia del mio amore per la mia maestra. Decisi di impugnare lo stilo solo per descrivere grandi eventi come quello odierno. Oggi Sinesio di Cirene transita per Alessandria, diretto a Costantinopoli per conto della Pentapoli Cirenaica. Sta recandosi in missione diplomatica dietro incarico del Senato di Cirene. Ipazia e io stiamo andando al porto per salutarlo. La mia maestra cavalca il suo cavallo nero davanti a me, mentre io sono in groppa a un ronzino grigio-bianco che mi ha lasciato in eredità mio padre lo scorso anno, quando è morto per un'improvvisa febbre intestinale che ha seminato morti a non finire in tutta la città. Da quella notte di settembre in cui cavalcammo sotto la pioggia, la mia vita è continuata solo apparentemente come prima, dedicata completamente allo studio e alla ricerca scientifica assieme a Ipazia e ai miei compagni, solo apparentemente, perché dentro, nel profondo del mio cuore, nel mio sangue, nella mia mente, c'era sempre lei, la sua anima, il suo spirito indomito, la luce dei suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli, il suo profumo. Valeria 2 anni fa si è sposata con Nicandro e da allora la nostra amicizia si è rasserenata, rafforzata, mentre non c'è stato mai più momento di pace tra me e la mia maestra. Da quella notte piovosa di settembre, Ipazia mi ha donato momenti di intimità spirituale come non era mai accaduto prima. È come se con quell'abbraccio le avessi strappato un velo di paura sconosciuta, come se avessi fatto crollare uno steccato che si ergeva tra di noi. È come se l'aver sentito pulsare il nostro sangue e l'uragano di quei momenti mentre fuggivamo dai sotterranei del Serapeo per Ipazia fosse stata una liberazione. È come se avesse imparato a riconoscere la forza travolgente della passione e quindi a controllarla. Quella notte Ipazia non dormì nemmeno una clessidra. Trascorse tutto il tempo in biblioteca a rileggere il commento al testo di Moco e di Democrito. Io ero terrorizzato al pensiero d'averla offesa, ferita. Non feci altro che muovermi come una belva in gabbia nel buio del peristilio del giardino. Mi avvicinai molte volte alla porta della biblioteca, in silenzio, distrutto dalla vergogna, e una di quelle volte lei, senza nemmeno sollevare il capo dal codice, con un soffio di voce mi scongiurò affinché niente al mondo scavasse un abisso tra noi due. Poi alzò lo sguardo. L'incerto sfavillio del trilume stava per estinguersi. Il suo bellissimo volto era ancora infuocato. Shalim, se io decidessi di avere una vita secondo le norme e le consuetudini di tutto il mondo, saresti tu l'uomo che vorrei accanto a me. E abbassò gli occhi imbevuti di ansia. Ma io voglio che tu sia per me un fratello. E tornò a sollevare uno sguardo tremulo di pianto. Ma nemmeno voglio che sacrifichi la vita per me. Labbra bagnate di lacrime, voce accorata. Mi spiace, Shalim, non si può forzare la propria natura. Io finora sono riuscita a trovare un equilibrio e abbassò timidamente gli occhi. E in questa armonia, in questo equilibrio, tu, Shalim, sei, non so come dirtelo, tu rappresenti una certezza, solida, forte, che mi conforta in ogni decisione che prendo, che non permetterà mai che in me si spenga il sogno di un mondo più giusto. E sollevò gli occhi, il bel capo fiero in attesa di un mio commento. Va bene così, Ipazia, davvero, va bene così. E le sorrisi emozionato perché potevo continuare a vivere accanto a lei, ma non era vero che andava bene così. La mia maestra ora ha 29 anni. E cavalca il cavallo nero, indossa una tunica bianca, ha i capelli legati a coda di cavallo con un laccio nero ed è bella come il sole. Oggi è il suo compleanno. Io la seguo con uno strazio nell'animo che riesco a nascondere malamente. Tremo al solo pensiero del mio progetto, ma devo trovare la forza di attuarlo. Ho 27 anni, non riesco più a tenere a bada il tormento che ormai mi sta letteralmente distruggendo la vita. Passiamo davanti al teatro, poi al Cesareo ed entrambi fissiamo la cupola rossastra. Non riesco a dimenticare il sole che veniva risucchiato dalla nuvolaglia nera dei corvi. Poi dagli obelischi di Cleopatra raggiungiamo il Porto Grande. Di fronte a noi, alla punta orientale dell'isola, si erge la maestosa costruzione del faro. Scendiamo da cavallo e ci dirigiamo verso una nave brulicante di gente. È una mattinata limpida, leggermente fredda, ma già odorosa di primavera. È la terza ora e tutto il porto è un viavai di gente dai magazzini per le operazioni di sdoganamento di carri, di trasporto di mercanzie, di bestiame, di anfore, di frutta, di cereali, di schiavi venduti, di schiavi ancora in vendita. È lui a scorgerci, ad abbandonare le persone con cui sta parlando e a correre verso di noi ad abbracciare Ipazia. Sinesio, ormai completamente calvo, subito ci scherza sopra, non è cambiato. Il solito sguardo incantato dinanzi alla vita e i soliti modi raffinati nel parlare, nell'agire, nel camminare. Che gioia rivedere te, Ipazia, e te, Shalim, e la mia adorata Alessandria, il fiore di tutte le città. Un giorno farò di tutto per sistemarmi qui. Mi sposerò, avrò dei figli e potrò avviarli allo studio della filosofia. E anche i miei figli avranno come maestra la più grande filosofa che il genere umano abbia conosciuto. Ipazia sorride. Oh, non ci vuole molto essere la più grande di uno stuolo inesistente. Ma chissà quante altre donne si sono dedicate allo studio della filosofia e non sappiamo nulla di loro. E stringe un braccio all'amico. Sinesio, allora ti fa proprio piacere visitare il faro. Shalim è riuscito a procurarsi il permesso. Facciamo in tempo? Certo. Le operazioni di scarico e carico dureranno 3 o 4 ore. Ho sempre sognato la vista di Alessandria da lassù e indica la sommità del faro. Devo bere il sole, l'aria di questa meravigliosa città. Oh, quanto è triste la mia Cirene! L'amo solo perché lì ci sono le mie radici. E le tue terre, aggiungo io sforzandomi di ridere. Ma mi riesce proprio male. Sinesio e Ipazia non devono accorgersene perché scoppiano in una risata genuina. Ci affrettiamo ad affittare un cavallo per Sinesio e ci avviamo verso l'eptastadio. Prima di cominciare la scalata, faccio visitare il cimitero dei bambini e delle bambine a entrambi e, approfittando di un momento di distrazione di Sinesio, mostro ai pazzi la tomba dietro la quale è nascosto l'accesso ai sotterranei, agli antri in cui seppellì le anfore contenenti preziosi testi filosofici e scientifici. Le spiego come fare se un giorno dovessi avere bisogno di accedervi. Oh, ma quel giorno ci verremo insieme, Shalim, e tu mi guiderai? Mi sussurra, fissandomi sorpresa. Mi separo da lei, tremando, e mi metto a cercare il nostro amico. Quasi 2 clessidre dopo, ansanti, raggiungiamo la vetta. Facciamo visitare a Sinesio il locale degli specchi, s'attarda a osservare il sistema che permette alla luce delle fiamme notturne, create dalla resina o dalla nafta, di raggiungere oltre 250 stadi. Poi il mio compagno di studi immerge lo sguardo nella città e anch'io resto incantato ad ammirare Alessandria, il Porto Grande ai nostri piedi, le rovine del Tempio di Isi, dei palazzi reali, gli obelischi di Cleopatra, la cupola del Cesareo e il pensiero di quello che sto per fare in grosso al mio malessere. Non ho il coraggio di accettare lo sguardo della mia maestra. Mi rifugio nel locale dove si trovava l'osservatorio astronomico. Poco dopo anche Ipazia e Sinesio mi raggiungono. Ipazia sta completando il racconto di quanto avvenuto in questi ultimi tempi. La mia gatta è morta di una malattia inspiegabile. Epicrate ci ha abbandonati ed è tornato alla sua terra. Mio fratello Atanasio forse non tornerà più dall'Oriente. Valeria sta per diventare madre. Ha una gravidanza molto difficile e da parecchi mesi abbiamo perso il suo contributo. Per il resto è tutto come l'hai lasciato tu. Con la luce del sole il nostro centro è una scuola, sempre più apprezzata, devo dire, e con l'insegnamento riusciamo a ricavare quel tanto che ci occorre per tirare avanti. Dal tramonto in poi si trasforma in accademia e portiamo avanti i progetti di ricerca scientifica più delicati, più folli. Ma in genere, durante la notte, solo il nostro fidato Shalim riesce a tenere a bada madre natura e cerca i miei occhi con uno sguardo affettuoso, ma io rispondo con un rapido cenno di cortesia e mi immergo nell'osservazione dell'astrolabio d'argento costruito da Ipazia, con il contributo mio e di Sinesio, e che donammo all'osservatorio anni fa. È difficile, Sinesio, te l'assicuro, trovare un giusto equilibrio tra libertà di studio, programmi di ricerca e l'attuale momento storico. Ti assicuro che quando morirono Teodosio e Ambrogio pensai che il peggio fosse passato. Davvero, Ipazia. E si passa una mano sul capo nudo. Ambrogio e Teodosio hanno gettato le basi affinché Chiesa e Impero Romano siano un tutt'uno, affinché il cittadino romano coincida con il credente cattolico. E Onorio e Arcadio continuano con la politica del padre, come combattere questo strapotere, amico mio, quando come armi abbiamo solo la ragione e la parola. Sto cercando di far rivivere la vera filosofia. Sogno di realizzare la Politeia, almeno nel nostro Egitto, terra di origine della scienza e del sapere filosofico, ma soprattutto qui ad Alessandria, perché la lotta per la liberazione del mio popolo è anche la lotta per l'affermazione della mia libertà. Il futuro, il destino della mia gente, guidato da noi filosofi che al pensiero facciamo seguire l'azione, riuscire a convincere la gente che almeno noi, i maestri, non sottostiamo a nessun credo religioso, che la nostra unica religione è la filosofia, la vera strada per la conoscenza e per la verità. Con la filosofia potremo cercare di indagare e scoprire il mistero della vita e della morte e chissà anche il destino della nostra anima. La nostra maestra è tornata da Vincere Sinesio, gli si legge sul volto aperto. Ipazia, allora continua così. Nonostante tutto quello che è accaduto finora, forse possiamo continuare ad addentrarci nei segreti della natura per un futuro meno buio. Coltivare questa speranza grazie all'opera di gente come te, come Shalim e come me. Nonostante tutto, io vedo fiorire attorno a noi, al nostro movimento degli Elleni, un consenso sempre maggiore. Siamo mossi dagli amori per le cose divine, la cultura greca, il sapere, la filosofia, la ragione. I nostri dei sono filosofi e scienziati. La gente crede in noi perché siamo sinceri, perché non abbiamo secondi fini, perché non vogliamo appropriarci delle loro idee per carpigli denaro e obbedienza. La fissa con un'espressione di affetto. Questa mia speranza, questo mio fuoco, sei tu che me l'hai trasmesso. Non puoi capire quello che hai prodotto in me. Hai trasformato un giovanotto di buona famiglia, abituato solo al lusso e alle comodità, che passava le giornate andando a caccia e studiando i bei modi di parlare, in un uomo che ragiona, che pensa. E nella mia città cominciano a rispettarmi, ad ascoltarmi e non a ossequiarmi perché sono di famiglia facoltosa. Spalanca gli occhi ardenti. Questo mio viaggio a Costantinopoli non sarà vano, te lo prometto. Accresceremo i legami con gli elleni della capitale. Peonio è diventato un alto magistrato e farà da ponte. Mi ha scritto che non dimenticherà mai il periodo in cui era comandante dell'esercito qui ad Alessandria e che ci raccomanda di ben istruire il figlio Ierocle. E poi andrò ad Atene. E tu tornerai assieme a me, Shalim, a Roma e parlerai di astronomia e di geometria, mostrando una visione politica del mondo. E spiegherai a tutti, come hai fatto con me, Shalim, che l'astronomia è di per sé una scienza di alta dignità, ma può servire anche per ascendere a qualcosa di più alto, da tramite opportuno verso l'ineffabile teologia, già che il beato corpo del cielo ha sotto di sé la materia e il suo moto sembra un'imitazione dell'intelletto. L'astronomia procede alle sue dimostrazioni in maniera indiscutibile e si serve dell'aiuto della geometria e dell'aritmetica, che non sarebbe disdicevole chiamare ritto canone di verità. Ipazia prende sotto braccio me e Sinesio, i miei allievi migliori, affascinato dalla meditazione filosofica Sinesio, dall'indagine scientifica Shalim. Oh, se riusciste a bilanciarvi, a compensarvi, sareste perfetti. Dovete tornare a lavorare insieme e ci fissa felice, mentre il tormento della mia anima si ingigantisce. Siamo tornati al Porto Grande. La nave con cui deve imbarcarsi Sinesio tarderà altre 2 ore a partire. C'è molto fermento. Ci sono guardie curiali, monaci parabolani, un brulichio di gente inesplicabile e parecchie carrozze con fregi dorati. Da una nave appena giunta è scesa gente in alta uniforme, con toghe rosse. In mezzo a tutta questa moltitudine riconosco la faccia minacciosa del vescovo patriarca Teofilo. Se ne rendono conto anche i pazzi e Sinesio, restiamo fermi, in attesa. E poco dopo le carrozze si muovono, precedute da guardie a cavallo. S'avviano verso di noi. Accanto a Teofilo c'è un uomo della nostra età, dai capelli biondici e faccia pallida, naso affilato, bulbi oculari enormi con iridi spente che sembrano non avere luce, non rifletterla. È Cirillo, il nipote del vescovo. Teofilo incrocia i nostri sguardi, dà ordine di fermare il corteo. Oh, il nostro proprietario terriero, Sinesio di Cirene, la nostra filosofa predicatrice, Ipazia, e il cristiano Shalim che non mette mai piede in una chiesa, un trio veramente interessante da incontrare. E il tono trabocca di sprezzante ironia. Sinesio di Cirene, sono riuscito a sapere dove vai e quindi posso supporne il motivo. Teofilo, ti ho scritto una lettera 10 giorni fa, l'avrai certamente ricevuta, e lì ti mettevo al corrente che sto per recarmi a Costantinopoli per incontrare il prefetto Aureliano, con l'intento di accrescere i legami con il movimento degli elleni della capitale. Quanti sinodi e concili organizzate voi della Chiesa? Che c'è di strano in quello che facciamo noi filosofi e studiosi? E nella voce argentina di Sinesio c'è una tale ingenuità che persino lo sguardo vitreo di Cirillo diluisce in una specie di pallida indulgenza. Ma gli occhi neri e sanguigni di Teofilo non allentano la tensione della sfida. Oh, viva la faccia di Pazia, signor proprietario terriero, almeno lei su quella faccia da astro incontaminato della sapiente cultura. La sfida ce l'ha dipinta chiaramente, non fa nulla per nasconderla. A voi tre e agli altri allievi del centro studi do un consiglio. Lasciate perdere. È tutto inutile. Devo riconoscerlo, siete gente valida e intelligente. Avervi con noi semplificherebbe le cose. Si eviterebbe spreco di energie e spargimento di sangue. Rendetevi conto che per l'ellenismo e per i pagani, e protende le enormi mani pelose mentre una terribile smorfia gli esplode sul volto, è finita. Ambrogio e Teodosio hanno tracciato un solco che è spartiacque epocale, abissale, altro che Mosè nel Mar Rosso. Li vedete, i due rappresentanti dell'imperatore Onorio? Vedete queste due grandi figure nella carrozza dietro di noi? Volevano recarsi direttamente a Cartagine, ma ho pregato Agostino, il vescovo Agostino, di avere pazienza qualche giorno. Ci tenevo che facessero prima tappa qui, ad Alessandria, perché è qui, nel vostro centro studi, che si nascondono le ultime resistenze. Ogni cittadino dell'impero getti nell'immondizia le immagini dei falsi dei e abbracci la croce di Cristo. Puoi dirci cosa sono venuti a fare questi due rappresentanti, Teofilo? Certo, filosofa, e pronuncia questa parola con tono sprezzante. Sono i comites Giovio e Gaudenzio, sono gli emissari imperiali che andranno a completare l'opera da noi iniziata qui ad Alessandria anni fa. Stanno per recarsi in tutta l'Africa a chiudere tutti i templi pagani dietro ordine dell'imperatore di Occidente Onorio. Mentre il nostro imperatore Arcadio ha ordinato che i pagani siano processati per alto tradimento. Ci artiglia tutti con un'occhiata minacciosa. Se pensavate che con la morte di Ambrogio e di Teodosio gli eventi potessero mutare, ora avete capito che erano vane speranze. Ci sono io, c'è Agostino. C'è Giovanni Crisostomo, che io non sopporto, ma a cui va il merito di aver continuato presso l'imperatore l'opera di Ambrogio, e anche se a malincuore, devo essergli grato per la distruzione dei templi che ancora resistevano nelle campagne. Mentre Teofilo continua a parlare col suo tono altezzoso e minaccioso, sul volto pallido di Cirillo non appare una sola traccia di emozione. Da quel poco che si intravede, le iridi non riflettono né umanità né disumanità. Ipazia, tutta la vostra cricca, purtroppo, gode ancora di una speciale protezione perché è costituita da studiosi, ma ultimamente state approfittando un po' troppo di questo privilegio. E con la mano pelosa s'accarezza il mento aguzzo. Non finirete bene. E arriccia in modo grottesco le labbra gonfie. Perché ci stiamo approfittando di questo privilegio, vescovo? La mia maestra gli ha parlato con tono pacato. Per Perché soprattutto tu non t'accontenti più di ficcare lo sguardo tra le stelle e nei segreti della natura. Non ti basta più divulgare la scienza tra i tuoi allievi, no? Adesso stai prendendo la brutta abitudine di agghindarti col mantello che indossava Socrate e i cinici e andartene in giro per la città a predicare. E la fissa con occhietti socchiusi. Io non predico, Teofilo, io insegno. Oh no, signora filosofa, tu fai la stessa cosa che faccio io. Tu parli con la gente comune, con il popolo, affinché la pensi come te, per strada. Ma se la pensa come te, il popolo si allontana da me. Come la mettiamo, Ipazia? La gente crede in te perché tu insegni a dubitare, a disobbedire, non a credere e obbedire. Sgrana a dismisura gli occhi spiritati. Come la mettiamo? Astro incontaminato. Pensaci bene, questo non è un gioco, né tantomeno una leziosa disputa di retorica, questa è guerra. E scrollando con decisione il capo dà l'ordine di ripartire. Riesco a cogliere solo un battito di vita sul volto di Cirillo, un'impercettibile palpitazione delle labbra taglienti. Sfilano anche le carrozze con i comites, Giovio e Gaudenzio e altri carri ancora. Il corteo si chiude con molti soldati a cavallo. Quando la folla si è diradata, accompagniamo Sinesio proprio sotto la nave. Il nostro amico ha perso l'espressione gioviale, si è incupito in volto. Stai attenta, Ipazia. Forse ti conviene smettere di insegnare in mezzo alla gente. È questo che teme maggiormente Teofilo. Lo so perfettamente, ma è l'unico modo per contrastarlo e non smetterò mai. Fino all'ultimo giorno della mia vita. La sua voce è ferma, decisa, i suoi occhi non conoscono tremito. Sinesio si rivolge allora a me con un'espressione preoccupata sul viso. E allora Shalima abbandona l'idea di venire con me. Ho paura che mai come adesso i pazzi abbia bisogno di qualcuno che la protegga. E mi abbraccia calorosamente. Restare accanto a lei è il più bel regalo di compleanno che puoi farle. E mi dà delle affettuose pacche sulle spalle. Ipazia abbraccia Sinesio, gli raccomanda di allacciare ottimi rapporti con gli elleni di Costantinopoli, di invitare qualcuno di loro ad Alessandria, di tornare presto. Sgrana gli occhi sentendo che lui ha deciso di restare nella capitale non meno di 3 anni e si gira verso di me scrutandomi intensamente. Prima di montare a cavallo mi lancia uno sguardo timido. Volevi abbandonare Via del Sole per 3 anni? E scuote la testa incredula. Per 3 anni e senza dirmi niente. E si emoziona. Non sapevo che Sinesio avesse deciso di partire per così tanto tempo, ma non so mentire. La mia voce è falsa, lei capisce. S'aggrappa al cavallo nero, si tira su, si aggrappa alla criniera e prende a spronarlo. Il mio ronzino fatica a tenerle dietro. La gente si scansa, spaventata, urla e lancia imprecazioni al nostro passaggio. Ansanti e sudati. Giungiamo infine in Via del Sole. La vedo scomparire nell'atrio, correre verso il giardino, la seguo, la trovo nella biblioteca, sul tavolo centrale c'è il rotolo col fiocco azzurro. Faccio per prenderlo. Me lo strappa dalle mani, lo apre, legge le prime righe, alza gli occhi umidi su di me. Perché, Shalim? Tu non volevi andare via da Alessandria per fare un'esperienza a Costantinopoli? E legge qualche altra riga del mio rotolo. Tu volevi fuggire da me. Faccio il giro del tavolo, mi piazzo di fronte a lei, ma non so da dove cominciare. Non potevi parlarmene. Volevi fuggire. L'avevi pianificato, senza dirmi niente. Oh, grazie, Shalim. Grazie per questo bel regalo di compleanno. E lancia il rotolo in un angolo del tavolo, lontano da noi. Poi mi guarda con occhi traboccanti di amarezza. E perché non sei andato via? Fai ancora in tempo. Manca oltre un'ora alla partenza della nave. L'incontro con Teofilo mi ha fatto riflettere. L'ha capito anche Sinesio. Non posso lasciarti sola, ora meno che mai. E cerco di sfuggire ai suoi occhi. Mi afferra per un braccio, mi strattona con una mano, mi gira il mento. Ma perché volevi andar via? Cosa t'ho fatto? Perché tu vuoi fuggire a causa mia? Eh? È questa la verità. Non condividi più il mio modo di pensare, è questo. Mi vede scuotere la testa, sconvolto. E allora che altro può esserci? Ami una donna? È a causa di una banale storia d'amore che vuoi abbandonarmi? È questo, te lo leggo negli occhi. Oh, che sconfitta! Il mio miglior allievo, Shalim, una roccia che si sgretola sotto un sentimento di amore umano. E continua a scrollare il capo incredula. Ma allora, perché non affronti questa tua nuova condizione, come hanno fatto Valeria e Nicandro, eh? Perché? E da quando sei in questo stato? Shalim. Ho paura a rispondere. Questa è una strada senza ritorno. Poi sento la mia voce declamare: devo intendere che non avete papiro da vendermi? E riesco a trovare un po' di forza per sorridere, nonostante l'emozione mi stia squassando l'animo. Era il 1° luglio di 8 anni fa, Ipazia. Avevo 19 anni e tu 21. E con quella frase entrasti nella mia vita e nel mio sangue. Si morde le labbra, mi sfiora le mani. Respira con affanno. E io continuo. La mia vita è cominciata 8 anni fa, prima di conoscere te, ero un ciottolo sperduto lungo le rive dell'esistenza. Poi sei arrivata tu, la mia maestra. Hai risvegliato tutte le energie intrappolate in questa mia piccola mente, energie intellettuali e umane, il sogno di un mondo migliore. Ma tutto questo è accaduto non leggendo i tuoi testi di filosofia e di matematica, lontano da te, senza averti mai vista e conosciuta, ma standoti accanto. E a nulla è valso il fatto che ho sempre saputo che eri una stella irraggiungibile. Una luce indulgente nei suoi occhi mentre io ormai non mi fermo più. Ti sono stato accanto per 8 anni, fingendo solo devozione e amicizia mentre ero innamorato, senza speranza. Ma quella notte che fuggimmo dai sotterranei del Serapeo sul tuo cavallo, per pochi momenti fui costretto a stringerti a me. Le prendo le mani e lei prova a ritrarle e le imprigiono i polsi. Timide vampe alitano sulle sue guance. Fosti chiara, mi dicesti che accettavi la mia presenza al tuo fianco solo come un fratello, perché tu avevi raggiunto un equilibrio, un'armonia. E che potevo fare, Ipazia? Fuggire dall'incarnazione dell'ideale, della bellezza? Restai alle tue condizioni, sperando sempre che un giorno tu mi permettessi di entrare nella tua anima. Mi interruppe. Ci sei entrato, Shalim, quella sera davanti al tempio di Posidone, quando suonammo la costellazione della musica. Ma accenna un passo indietro mentre io la incalzo senza mollarla, sperando sempre che un giorno tu mi permettessi di entrare nella tua anima e nel tuo corpo. E mi mordo le labbra e tremo dinanzi a questa dea. Restai pur sapendo che sarebbe stato un tormento che ora è diventato insopportabile. Scuote la testa, occhi ardenti di affettuosa profondità. Ti dissi che se un giorno io avessi accettato di vivere una vita come tutti gli altri esseri umani, il mio compagno saresti stato tu. Io non so mentire, Shalim. Sono come te. E i suoi polsi non lottano più, cedono, si aprono. E me la trovo tra le braccia con tutta la bellezza della sua innocente sensualità. Stavi per lasciarmi. E solleva il capo, occhi che vibrano di candore. Labbra tremanti, prova a separarsi da me, poi, nascondendo il volto sul mio petto, alza di nuovo gli occhi, freme, spaventata. Non sarebbe comunque possibile, Shalim, ho il mestruo! E piange, mentre io le sfioro le labbra che mi sta offrendo, le bacio gli occhi impregnati di pianto, affondo una mano tra le nuvole dei suoi capelli, i suoi occhi imploranti nei miei, il mio alito nel suo alito. Io me lo bevo il tuo mestruo, me lo bevo! La tempesta di baci mentre la tengo avvinghiata al mio sangue. È lei ora a sollevarsi sulla punta dei piedi, a cercare i miei occhi, a baciarli e profuma. Di questo ti sei innamorato, Shalim, del mio mestruo. E le sue mani disperate non ce la fanno ad allontanarmi da lei. Speravo che tu vedessi in me solo un ideale, quel punto a cui tendiamo e che forse abbiamo intravisto quando componemmo la costellazione della musica. Shalim, io. Ho deciso di dominare le forze che ho dentro di me. E piange e mi bacia con una dolcezza infinita. La tua maestra ha il dovere di dirti che noi due abbiamo un altro compito, fare la storia. E mi bacia, cercando di infondermi tenerezza, mentre io le strazio con le mani la vita sottile. E questi, Shalim, sono anni decisivi e la tua maestra deve ricordarti che se abbandoniamo noi per il genere umano forse ci sarà il buio. Ma io la vinghio disperatamente. E la tua maestra deve avvertirti che a noi due l'amore umano non è permesso. E mi bacia, piangendo, in ginocchio davanti a lei. La imploro di non piangere più mentre l'uragano che mi ha squassato corpo e anima non vuol saperne di placarsi. Penso che siano sempre loro a vincere. Certe idee te le ha sicuramente inculcate quel trattatello di Ambrogio. E mentre lei prende ad accarezzarmi i capelli, le sfioro il ventre con un bacio, imbevuto di disperazione.